Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 28 febbraio 2015. Realtà aumentata, boom dei download mentre l'Expo pensa anche ai disabili. La previsione di 1,4 miliardi di download entro il 2015 per ogni applicazione per smartphone che offra contenuti di realtà aumentata era stata fatta 4 anni fa da Juniper Research. Ora si può dire che è stata pienamente centrata. Negli ultimi anni si sono infatti moltiplicate le iniziative di aziende piccole e grandi che sfruttano la possibilità di interagire meglio con gli oggetti, offrendo nuovi contenuti grazie a questa tecnologia. Diverse app per smartphone permettono infatti di far partire filmati, vedere immagini o consultare informazioni semplicemente inquadrando l'oggetto in questione con la videocamera del cellulare. E la realtà aumentata è protagonista anche ad Expo 2015. La grande esposizione al via tra poche settimane offrirà diverse opportunità di sfruttare questa tecnologia pensando anche ai disabili. In primis grazie ai cyberocchiali che permettono di vedere su alcune superfici dei padiglioni informazioni, immagini e filmati. Fin qui la notizia del 28 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. Nei giorni scorsi, nel corso della presentazione delle iniziative Cisco in vista di Expo 2015, sono state illustrate alcune soluzioni basate sulla realtà aumentata. Valerio Zingarelli, responsabile tecnologico della manifestazione, al microfono di Enrico Pagliarini. Molti sono abituati ad usare applicazioni per smartphone che fanno la realtà aumentata, dove si prende lo smartphone, si guarda in una certa direzione, sullo schermo del telefonino si vedono delle cose in più. Noi faremo non solo quello, ma faremo una cosa ancora più comoda, degli occhiali che quando sono spenti sono completamente trasparenti, ma quando sono accesi sul vetro degli occhiali mi fanno vedere le cose. E attenzione, questo tipo di applicazione non è soltanto per facilitare e rendere più comoda la vita dei cittadini normali, ma anche per aiutare e rendere migliore i disabili. Pensi ai sordi, i non udenti diciamo meglio, che possono leggere con questi occhialini di realtà aumentata delle cose sul vetro che altrimenti non potrebbero recepire. Quindi aumentiamo, diamo delle soluzioni tecnologiche e ne faremo tante, non solo per i non udenti ma anche per tutte le altre forme di disabilità grazie a queste innovazioni tecnologiche che verranno portate da Expo. Quindi Expo sarà una città che non è soltanto barrier free dal punto di vista architettonico, ma sarà anche la città per facilitare la vita alle disabilità. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.